Ma tra 9 anni, quando Air Batman riceverà un bel vitalizio da 4.000 euro? E io pago! E io pago! La Polverini queste dimissioni le avrà finalmente date o no? E lui risponde, ma sor padrone, tamo pagate in te, pagamo più. Tamo pagate in te, pagamo più. E gli rispondevo in coro, è meglio fido degli castelli che questa zozza società.